Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qua a leggere per l'appunto i giornali. Sono le 7:20 minuti. Oggi avremo ospite. Intanto alle 8:30 parleremo di quello che sta succedendo in Medio Oriente, tra Israele e la striscia di Gaza. Avremo con noi due ospiti. E uno è l'ex ambasciatore italiano, israeliano in Italia, Avi Pazner, che ora è uno dei portavoce del governo israeliano, e poi avremo l'inviato del manifesto Michele Giorgio, che si trova all'interno della striscia di Gaza. Avremo ospite anche il segretario regionale dell'associazione Stampa Siciliana, il sindacato in Sicilia, dove c'è Crocetta che vuole, anzi ha fatto decadere i 21 giornalisti dell'ufficio stampa della regione. 21. Di questo ne parlano anche i giornali di oggi, in particolare La Stampa e l'Unità. Ma andiamo appunto a sfogliarli questi quotidiani. È martedì 20 novembre, i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla finanza ombra, la febbre della finanza ombra, questo è il titolo di apertura. C'è anche un'inchiesta di Claudio Gatti sui junk bond, sui titoli che valgono 2 miliardi e mezzo, le ultime obbligazioni spazzatura, con l'ultimo allarme che arriva dagli Stati Uniti. Poi praticamente tutti i quotidiani aprono sulla vicenda del sequestro del ragionier Spinelli, il cassiere di Berlusconi. Corriere Repubblica, forse si sono telefonati, hanno lo stesso titolo d'apertura di prima pagina: il giallo del cassiere di Berlusconi. Il Messaggero, Berlusconi, il giallo del cassiere. La Stampa, sequestro lampo con riscatto, giallo sul cassiere di Berlusconi. Il Giornale, chi c'è dietro il sequestro del cassiere di Berlusconi. L'Unità, il cavaliere si tinge di giallo. Il Secolo XIX, ricatto a Berlusconi, è giallo. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi e il rapimento Spinelli, costa caro il bunga bunga. Gli unici quotidiani che aprono in modo diverso: Libero, come difendersi dal redditometro, da oggi il test. Avvenire, su Medio Oriente si spara e si tratta. E invece no, è pubblico anche Olgettina Gate. Non trovate in edicola oggi il manifesto perché c'è stato un guasto tecnico grave al sistema informatico, e quindi non è oggi in edicola. Il manifesto però dice sul sito manifesto.it, trovate, diciamo, alcuni degli articoli che siamo riusciti a pubblicare almeno online, però non lo trovate in edicola. Voglio partire da cosa? Un articolo del Fatto Quotidiano, per poi capire subito cosa succede in Sicilia, visto che approfondiremo alle 8:15. Il Fatto Quotidiano racconta con Carlo Tecce le resistenze dei parlamentari nella conversione del decreto che dovrebbe tagliare le province. Vabbè, ma c'era da chiederselo anche: a rischio il taglio delle province? Questo è il titolo del Fatto a pagina 7. I partiti bloccano l'iter del decreto, il ministro Patroni Griffi sbotta: irresponsabili. La provincia, scrive Tecce, è uno zombie, soppressa, riemerge, ancora soppressa, ancora in piedi. Il ministro Patroni Griffi si sente preso in giro. Noi ci siamo assunti una grossa responsabilità, adesso tocca ai partiti, che però cincischiano, perdono tempo per bloccare la riforma. È un risparmio che in forma ufficiosa al ministero quantificano in mezzo miliardo di euro. Eccolo qui il decreto legge, 60 giorni per la conversione, cioè quello che prevede la sepoltura di 35 enti su 86, comprese le città metropolitane. Cosa stanno facendo i politici? Racconta almeno il Fatto Quotidiano. Beh, la melina, in stile perfetto calcistico: perdono tempo, un emendamento di qua, una mozione di là, dubbi costituzionali, dilemmi pratici, frizioni burocratiche, cavilli istituzionali, per cercare di far decadere il decreto. Questo almeno racconta il Fatto Quotidiano nell'articolo "A rischio il taglio alle province", che trovate a pagina 7. E invece in Sicilia che succede? Beh, in Sicilia Crocetta ha fatto una cosa, a mio modo di vedere, totalmente legittima e serenamente equilibrata, e cioè ha detto: è arrivato, ci sono 21 addetti stampa alla regione Sicilia. E Crocetta ha detto: 21, 21 mi sembrano un po' troppi. Ce n'è uno che è distaccata a Bruxelles, dove c'è la sede della regione Sicilia. Si tratta di Gregorio Arena, questo scrive almeno l'Unità, con Yolanda Bufalini a pagina 5, sotto il titolo Crocetta, decaduti giornalisti da Cuffaro, assunti da Cuffaro. Ce n'è uno, appunto, Gregorio Arena, corrispondente, diciamo, responsabile a Bruxelles, che somma i 3.800 euro netti di indennità, 3.800 euro da capo redattore, l'indennità stabilita dal Ministero degli Affari Esteri per i funzionari all'estero, complessivamente arriva a 12.500 euro al mese per stare, almeno secondo i giornali, a Bruxelles, ufficio stampa della regione Sicilia. E beh, Crocetta ha detto basta, sono troppi, i portavoce non si ereditano. Il sindacato della stampa, e avremo ospite Alberto Cicero, che è il presidente del sindacato in Sicilia, non si fa così, bisogna trattare, eccetera. Anche sulla stampa una pagina, Laura Anello, pagina 18, la regione Sicilia licenzia l'ufficio stampa milionario, il presidente Crocetta vuol dare il ben servito a 21 caporedattori assunti. La squadra dei record, la definisce Anello, oggetto di invidie, contestazioni, denuncia alla Corte dei Conti perché assunti senza concorso in un'amministrazione pubblica, perché inquadrati con la qualifica di caporedattore dal primo minuto, perché molto numerosi, 4 volte più della squadra in servizio a Palazzo Chigi in epoca Berlusconi. I 21 giornalisti assunti all'ufficio stampa della regione siciliana sono precipitati dall'empire o della professione alla polvere dell'annunciato licenziamento. È Crocetta che tra l'altro ha detto: io da sindaco di Gela ho licenziato la moglie di un capo mafia, figurarsi se mi faccio intimidire dalla casta dei giornalisti. Si racconta in questo resoconto di Laura Anello che erano diventati anche 23 a un certo punto, 21 dopo un pensionamento e il coraggioso addio di Giulio Ambrosetti, che rinunciò al posto d'oro restando disoccupato per la semplice ragione che dentro il palazzo non si divertiva per niente. Torno alla libertà, spiegò agli amici. E tra l'altro questo tema è dedicato anche il Buongiorno di Massimo Gramellini in prima pagina della stampa. Stampa a statuto speciale, questo è il titolo. Scrive Gramellini: il nuovo governatore di Sicilia intende sfoltire l'ufficio stampa della regione, dove lavorano 21 giornalisti, tutti con la qualifica di redattore capo, uno stipendio fino a 6.000 euro al mese. Uno di loro è distaccato a Bruxelles per curare le relazioni tra Palermo e il resto d'Europa, ma il presidente Crocetta giura di non averlo mai incontrato. Nei giornali, come in qualunque altro consesso giornalistico, la qualifica di caporedattore presuppone, per ragioni semantiche, l'esistenza di uno o più redattori che lavorino alle dipendenze del capo. Alla regione Sicilia, invece, ciascuno è caporedattore di se stesso e, capeggiandosi, redige. Una bella responsabilità che però adesso Crocetta ritiene di poter affidare a un numero più ridotto di persone. L'ufficio stampa del Piemonte ospita 9 giornalisti, quello della Campania anche meno. Naturalmente la Sicilia è un posto meraviglioso, merita più sforzi di qualunque altro, però 21 a 9 è un bel distacco. E anche questa storia delle ragioni a statuto speciale, lo possiamo dire, ha fatto il suo tempo. Erano giustificate 60 anni fa, quando l'Italia si ricompattava dopo la guerra, temeva di perdere pezzi ai confini, ma dopo 2 generazioni siamo o non siamo italiani tutti allo stesso modo? E la crisi ha reso ancora più odiosa questa perpetuazione dei privilegi, dal momento che le tasse le paghiamo o non le paghiamo tutti allo stesso modo. Ne parliamo alle 8:15, 21 giornalisti assunti alla Regione Sicilia. Ora andiamo a sentire 6 minuti di pubblicità. 24 mattino. Siamo qui allora alle 7:35 minuti e devo dire che la maggior parte dei giornali, come detto, dedicano pagine e pagine al fatto di cronaca che certamente è più interessante del giorno, con tutti i suoi contorni, tutti i suoi anche misteri. Già vi dico, i giornali ricamano sui possibili misteri, vale a dire del sequestro del cassiere ragionier Spinelli, cassiere di Silvio Berlusconi, colui al quale si rivolgevano anche tutte le olgettine per i pagamenti. Giuseppe Spinelli è stato sequestrato nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, ma la notizia è stata resa nota solo ieri, quando sono stati arrestati i 6 della banda che lo hanno sequestrato, 3 italiani e 3 albanesi. la scorta, le cassette di sicurezza, tutti i misteri del sequestro Spinelli. Ecco per esempio la cronaca pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, firma Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, che scrivono: corre l'obbligo di sottolineare, riassumono i PM Boccassini e Storari, che non tutta la dinamica di quanto si è verificato quella notte risulta chiara. Di certo c'è stato questo sequestro con modalità violente, Spinelli ferito al volto, gli occhiali a pezzi, la moglie teme li ammazzino, da parte di uomini armati, mascherati da passamontagna, guidati da un ex collaboratore di giustizia legato a un clan barese. E queste persone in possesso, a loro avviso, di materiale contro Carlo De Benedetti e Gianfranco Fini, audio e video che per loro sarebbero serviti a Berlusconi a livello mondiale per ribaltare la condanna in appello a pagare 560 milioni della Fininvest alla CIR di De Benedetti. Per avere questo materiale, queste persone, o millantato materiale, queste persone chiedevano soldi a Spinelli. Però poi ci sono i misteri raccontati da tutti i giornali. Quando finisce il sequestro, vale dire alle 9 del mattino del 16 ottobre, queste persone se ne vanno. Sono appunto le 9 del mattino del 16 ottobre. Perché invece la denuncia arriva solo via fax tramite l'avvocato Ghedini alle 16:20 del 17 ottobre, cioè un giorno e mezzo dopo? Intanto cosa succede in quelle 36 ore? Succede che gli uomini di Berlusconi si occupano direttamente della protezione di Spinelli, portandolo in una località segreta anziché farlo fare alla polizia. In questa finestra di ritardo finisce così per perdersi ad esempio una telefonata che i banditi fanno a Spinelli alle 14:51 del 16 ottobre, che scrivono Ferrarella e Guastella sarebbe potuta essere intercettata se gli inquirenti fossero stati avvisati, avrebbe dato un enorme vantaggio alle indagini. E insomma, questo è il primo giallo. Perché denunciare così tardi? Tra l'altro il Corriere racconta c'è un altro giallo, casualmente in quei due giorni Berlusconi viene definito con una febbre febbricitante, rinvia tutti gli impegni, tra l'altro un impegno con Monti, un impegno per andare a Bucarest dove manda Alfano, e scrive il Corriere: non è che vuol dire che in quelle ore era in realtà a contatto con lo stesso Spinelli, cioè l'ha raggiunto per cercare di capire cosa era successo. Insomma, questo è uno dei misteri che vengono raccontati dai giornali. E infatti anche il Fatto Quotidiano la mette così: i buchi nella ricostruzione, l'articolo di Antonella Mascali a pagina 3. Perché denunciare così tardi? C'è anche un'intervista a Giuliano Ferrara che definisce Spinelli, guardi, lasci stare, meraviglioso il fatto che abbiano letto il rosario tutti insieme sul divano, perché Spinelli racconta a un certo punto: io e mia moglie abbiamo recitato il rosario, è la perfezione della giornata del ragionier Spinelli, ho trovato bellissimo il gesto di restituire il passamontagna a uno dei rapitori, un gesto sublime, vedo la scena, dice Giuliano Ferrara al Fatto, lì a dire scusi guardi che credo che questo sia suo, strepitoso, io lo idoleggio, Spinelli era già un santo, ora è diventato un martire. Così Giuliano Ferrara. Spinelli, tra l'altro ragioniere di Berlusconi dal lontano 1978, è anche l'amministratore delegato della società che edita Il Foglio, il giornale di Giuliano Ferrara per l'appunto. Cassiere di Berlusconi, sequestro lampo, questo è il titolo del Sole 24 Ore a pagina 19, anche qui i misteri che addirittura Repubblica mette come sull'onda delle 10 domande celebri fatte a Berlusconi per tanto tempo, dalla corsa in auto ad Arcore alla denuncia 31 ore dopo, ecco i misteri del sequestro lampo di Piero Colaprico. Ci sono tutte le domande: perché i pubblici ministeri non sono stati informati subito? Qualcuno all'interno ha avvisato questa banda che forse da giugno vuole prendere Spinelli? C'è forse un nesso tra le storie di prostituzione sull'asse Bari-Roma-Villa Certosa e questo sequestro? Insomma, Repubblica la mette così, molto già sui misteri di questa vicenda. C'è anche un'intervista all'avvocato Ghedini, Niccolò Ghedini, che dice: un finto sequestro, caspita, ma stiamo scherzando, ma se hanno arrestato 6 persone, dice a Liana Milella. E poi che interesse poteva avere il povero Spinelli a fingere un sequestro? Beh, quello che portava i soldi alle oggettine, era un collaboratore stretto che Berlusconi conosce da anni, preoccupato per Amico. E ancora, ma siamo sicuri che fosse un vero sequestro? Ancora, risponde Ghedini. State ipotizzando che volevano indurlo a pagare comprando qualcosa di fasullo per poi sputtanarlo su un giornale compiacente. Mi dispiace proprio, ma non è così. È una vicenda semplice, senza dietrologie, un sequestro vero. Così Niccolò Ghedini, intervistato da Repubblica. E anche alla stampa, Grazia Longo, l'intervista la trovate a pagina 4. Quando mi ha chiamato diceva di non poter venire ad Arcore, così ho capito che qualcosa non andava. Perché con Berlusconi ce l'hanno? Beh, è un uomo molto facoltoso, risponde l'avvocato Ghedini. Oltre a essere ricco, ha una sovrasposizione mediatica. Berlusconi è talmente famoso che attira attenzione. Escludo che non sia stato, che sia stato pagato anche un riscatto. Non abbiamo pagato neppure un centesimo, così Ghedini, anche se l'ipotesi è una possibile riscatto di 8 milioni pagato. Beh, vai a saperlo, adesso nei prossimi giorni ci saranno puntate e puntate su questa vicenda di cronaca nera, su anche chi era questa banda, 6 rapitori, il capo della banda tradito dalle scarpe rossonere, cioè nere con i lacci rossi, è beccato a vedere la partita del Milan, Milan-Fiorentina. Ci sono anche degli aspetti effettivamente quasi da tragicommedia in questa vicenda. Uno di questi rapitori che non voleva dare tanto nell'occhio e quindi ha ordinato una Ferrari nel frattempo, una Ferrari Spider. Uno di questi è l'ex collaboratore di giustizia barese Francesco Leone, raccontano sempre Ferrarella e Guastella sul Corriere della Sera, pagina 3, con condanne per tentato omicidio, sequestro di persona, uno che anche secondo gli inquirenti raccontava di essere un affiliato della Sacra Corona Unita, ma che nell'ambiente mafioso era in realtà considerato un infame, tanto che l'Unità lo mette così nella vita di Ciccio Uguastato, cioè Ciccio il pazzo, no? Un altro rapimento fallito nel passato era definito un infame dalla mafia stessa. Ci sono anche tanti articoli sulla storia di Spinaus, come veniva chiamato dalle olgettine, Spinelli. Oreste Pivetta, per esempio, sull'Unità, pagina 3, un custode della contabilità del Bunga Bunga, fedelissimo di Berlusconi dal lontano 1978, quando passò dall'impresa lodigiani alla Edil Nord, era il cassiere per le oggettine, custode di segreti e misteri, sempre vestiva con abiti di ottimo taglio, camicia perfetta, cravatta a tono, con un'eleganza discreta. Una volta disse: faccio il mio dovere e basta, io faccio quello che mi si dice di fare. Tra l'altro prima l'abbiamo sentito in voce, una delle rare uscite, quando venne a testimoniare a Milano al processo, appunto, e i giornalisti lo inseguirono e gli dice: ma è vero che lei guadagna 13.000 euro al mese? Lui quasi con preveggenza ha detto: ecco, adesso che lo sanno tutti, grazie che guadagno 13.000 euro al mese. Il ragioniere di Silvio Berlusconi, al quale ieri Barbara Guerra ha mandato questo tweet. Barbara Guerra era una di quelle presenti delle cosiddette olgettine. Povero Spinellino, il mio tesoro, il traffico. Eccoci qua, allora, alle 7:46 minuti parliamo d'altro, ma guardate, sui giornali sono paginate e paginate. Chi dedica almeno 10 pagine a questa vicenda è il giornale che ne dedica meno, la vicenda della ragioniere Spinelli. E non è finita, immagino che nei prossimi giorni ci saranno ancora tanti tanti articoli. Arriva il redditest, come annunciava qualche giorno fa già il Sole 24 Ore, allora si mette a punto tutto. Che cos'è il redditest? Oggi Mario Sensini sul Corriere della Sera lo rispiega, pagina 11. Il redditest è un software che, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ci permetterà di capire quanto siamo esposti al rischio di un controllo fiscale. Ormai è pronto, da oggi il programma, che ieri è stato presentato in anteprima, potrà essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. E potrà essere utilizzato da tutti gli italiani, dai contribuenti. Non è un esame, ma è uno strumento che viene dato appunto agli italiani per verificare se, in base alle vostre spese, se avete tenuto gli scontrini degli ultimi giorni oppure teneteli da oggi e fatelo tra qualche giorno, in base agli scontrini che avete, in base alle spese che avete, voi con questo programma potete verificare se siete in qualche modo a rischio di un controllo, perché magari fate delle spese che non sono congrue con il vostro reddito. Come calcolare il fisco fai da te oggi? Libero tuona in prima pagina. Come difendersi dal redditometro? Questo in realtà è il redditest, però in previsione del redditometro. Per non incappare nei rigori del nuovo strumento del fisco bisogna conservare tutto, anche le ricevute delle paghette ai figli. L'onere della prova infatti tocca a noi. Libero la mette così, e cioè che appunto secondo Libero a questo punto si tratta di un sistema di quasi polizia fiscale per cui bisogna controllare tutto. E Maurizio Belpietro scrive: io ho la fortuna di essere uno che non butta mai via niente, sulla mia scrivania si accumulano ricevute di ristoranti, biglietti aerei, scontri del supermercato. Il problema è che non avendo molto tempo per riordinare, poi dopo qualche settimana il tavolo è ingombro di scontrini, lettere che vanno messe a posto, insomma un disastro. Secondo Libero è così, e addirittura titola Libero: rischiano a questo punto ora anche gli onesti. Però non si capisce perché questa versione. Non basta versare il dovuto, ora vanno giustificati tutti i pagamenti superiori al 20% dello stipendio, perfino la cena romantica e le spese scolastiche. Cosa vuol dire la cena romantica? Che vanno con l'amante? Non lo so, non capisco. Comunque, sta di fatto che arriva questo redditest a disposizione anche degli italiani e dei contribuenti. La politica invece per un giorno si prende un pochino di vacanze dai giornali, il che non è che proprio getta, immagino, nello sconforto, nella disperazione tutti i lettori dei quotidiani, a meno non me sicuramente. Certo, c'è da dire che la notizia più interessante è quella di Monti, che in qualche modo ha capito, come scrive giustamente Ugo Magri sulla Stampa pagina 6, si è accorto che da questo punto, da questo momento, ogni suo sospiro, qualunque batter di ciglia, scrive Magri, verrà interpretato alla luce di una possibile sua discesa in campo. E dunque subito Mario Monti ha rettificato quello che ha detto ieri in Oman. Si trova questa volta in Qatar, e che cosa ha detto Monti? Ha detto sicuramente che quelli che verranno dopo di lui saranno capaci di fare bene, anzi, aggiunto con un sorrisetto, scrive Magri, faranno anche meglio di me, con un sorrisetto interpretato in modo un pochino ironico dal cronista della Stampa. Beh, certo, ieri Monti aveva detto una domanda che poteva sembrare banale, e cioè alla domanda: ma chi può garantire per il futuro? Lui ha detto: beh, io per il futuro non posso garantire nulla. Potrebbe essere una cosa normale, ovvia da dire, ma chiaramente, appunto, in questo clima di campagna elettorale ormai già iniziata e perenne per i prossimi 6 mesi, in cui si parla di una possibile anche candidatura, quindi possibile Monti bis, ecco che allora qualsiasi parola, anche questa, qualsiasi frase era stata interpretata come dire: bravo, non posso predire il futuro, vuol dire che vuole rimanere lui, o meglio, se non c'è lui non si può sapere come andrà a finire. In ogni caso, anche il presidente Napolitano ha detto: deciderà il voto, ma Monti ha segnato il cammino. Come dire, chi verrà dovrà in qualche modo andare in quella direzione. C'è da dire che la visita di Monti negli Emirati, in Qatar, in Oman, in Oriente, in Medio Oriente, ha portato dal punto di vista anche economico una novità. A pagina 6 del Sole 24 Ore, cassa depositi e prestiti Qatar joint da 2 miliardi. Questa è la notizia economica. La cassa depositi e prestiti, racconta Laura Serafini, infrange un nuovo muro e si allea con un fondo sovrano del Medio Oriente. La veste dell'alleanza è questa joint venture paritetica, denominata IQ, cioè Italia Qatar Made in Italy Venture, di cui fa parte il braccio operativo della Cassa Depositi e Prestiti, e che dovrà soprattutto investire in che ambiti? Si pensa ai primi passi nella moda, nel lusso, nell'alimentare, il turismo, il lifestyle, insomma il Made in Italy per antonomasia, anch'esso è entrato nel mirino del fondo sovrano, e quindi questa è la joint venture tra Cassa Depositi e Prestiti e Qatar da 2 miliardi, un'alleanza per investire nel Made in Italy, soprattutto le grandi griff della moda sono nel mirino nel senso di possibili acquisizioni o comunque investimenti. Noi parleremo di esteri oggi alle 8.30, trovate tanti articoli su Gaza, sulla possibilità di una tregua in Medio Oriente, Israele e palestinesi, Israele Hamas, Israele e quello che succede nella striscia di Gaza. Su Israele piovono razzi, sono piovuti razzi nei giorni scorsi, a Gaza invece ci sono già oltre 100 morti, si lavora sulla tregua sulla quale lavorano gli egiziani soprattutto. Devo chiudere con questa notizia che abbiamo già dato all'inizio del Bar in Onda, secondo me è straordinaria, a pagina 8 del Corriere della Sera. C'è il presidente tedesco in visita a Napoli in questi giorni, il presidente Gauck, e allora un uomo della sua scorta, dopo averlo messo a letto, cosa fa a Napoli? Una passeggiata. Racconta il Corriere a pagina 8, fa una passeggiata in via Caracciolo che si trasforma però in un'esperienza spiacevole. L'uomo della scorta del presidente tedesco viene avvicinato da due persone, gli puntano la pistola in faccia e gli dicono prego dia l'orologio. Lui si sfila il Rolex, dà Rolex, ma Rolex è falso! Avete capito? Il pacco della scorta tedesca ai napoletani. Questa volta il mondo si è capovolto. È l'uomo di scorta del presidente tedesco che si è fatto rubare un Rolex, l'ha dato ai napoletani, ma Rolex era falso. Rapinato per strada un uomo della scorta di Gauck, Rolex falso dato ai napoletani. Il mondo proprio non si capisce più nulla. Va sotto sopra. Il giornale radio.